2024 di Enrico Pagliarini. Eccoci qui, ci siamo anche questa settimana alla puntata del 2 agosto 2014-2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. In questi mesi estivi siamo in versione ridotta, solo mezz'ora della nostra trasmissione, ma come sempre nella nostra versione podcast trovate più contenuti rispetto a quello che mandiamo in onda, le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Se volete potete raggiungerci anche attraverso Twitter e Facebook, cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. Allora direi che questa settimana possiamo iniziare subito con le nostre Digital News. Digital News. Dopo Apple, anche Samsung ha adeguato al rialzo i listini in Italia a causa del decreto sul compenso per coppia privata firmato dal ministro Dario Franceschini. Ricordiamo che tutti i supporti registrabili come hard disk o gli apparecchi che hanno una memoria all'interno pagano questo prelievo arbitrario, indipendentemente se poi uno copia o no materiale acquistato legalmente. Però per gli smartphone ricordiamo che si va da un minimo di 3 euro ad un massimo di 5,20 euro più IVA. TIM e Vodafone sono gli operatori mobili che più spingono sul 4G, ne abbiamo parlato in varie occasioni. Questa settimana TIM ha comunicato di aver raggiunto con la quarta generazione di telefonia mobile più di 1000 comuni, 1138 comuni, pari al 60,5% della popolazione nazionale. Secondo i nuovi dati AudiWeb, nel mese di giugno 2014 sono stati 26,9 milioni, quindi facciamo 27 milioni gli italiani che hanno navigato almeno una volta da un computer. L'audience online da PC nel giorno medio è stata di 13 milioni di utenti, cioè 13 milioni di utenti che quotidianamente navigano su internet. Microsoft ha fatto causa a Samsung negli Stati Uniti, accusando l'azienda coreana di non avere pagato le dovute royalty su Android. E uno si chiede cosa c'entra Microsoft con Android. Allora, Samsung, come tutti i produttori di terminali con sistema operativo Android, dovrebbe pagare a Microsoft dovrebbe dare soldi a Microsoft per alcuni brevetti relativi al sistema operativo Android detenuti proprio da Microsoft. Pensate che gli esperti stimano che siano circa 2 miliardi di dollari l'anno i soldi incassati da Microsoft per le royalty detenute sul sistema Android. Digital News. The Document Foundation ha annunciato LibreOffice 4.3, la nuova release del più importante pacchetto software da ufficio, pacchetto gratuito e libero disponibile in tutto il mondo su internet. Dal prossimo gennaio la Gran Bretagna autorizzerà la sperimentazione sulle strade normali di automobili senza guidatore. Le città interessate dovranno fare una gara per ospitare i test e ci sono 10 milioni di sterline in palio. Da questa settimana anche Chili, scritto CHILI, che è un servizio di streaming online, si possono acquistare online film che possono essere visti sul computer, ma un film va visto sul televisore. Da questa settimana anche Chili ha la propria applicazione per Chromecast. La settimana scorsa avevamo parlato dell'arrivo su Chromecast di Infinity, il servizio su abbonamento per vedere film online di Mediaset. Allora, a questo punto vogliamo cercare di capire che cosa sta accadendo, perché stanno arrivando settimana dopo settimana, mese dopo mese, nuovi servizi su Chromecast e non su Smart TV. Ne parliamo con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo da Chromecast, è una chiavetta che va inserita nel proprio televisore, è un annuncio che Google ha fatto già da qualche mese, ma potremmo dire che non è ancora oggi un prodotto noto al grande pubblico, famosissimo. Allora partiamo da qui, che cos'è Chromecast? Chromecast è una chiavetta simile nella forma a una classica chiavetta USB, ma in realtà lo spinotto che esce non è USB ma è HDMI, cioè è pensato precisamente per essere inserito in uno degli ingressi digitali del televisore. Quindi dalla chiavetta esce un segnale video Full HD che è possibile vedere su un ingresso standard di qualsiasi televisore oramai degli ultimi anni, quindi che abbia almeno un ingresso HDMI. La sostanza è quindi quella di avere una nuova sorgente, quindi un qualche cosa che ci permetta di vedere delle immagini. Ha effettivamente anche un ingresso USB che serve solo e soltanto per essere alimentata. Infatti la chiavetta non ha un'alimentazione esterna, si collega da un lato al TV via HDMI e dall'altra parte a una presa USB del televisore stesso, ma solo e soltanto per dare l'alimentazione alla chiavetta. Benissimo, questa chiavetta riceve segnali da internet, si collega alla rete internet e da lì arrivano appunto i contenuti. Che tipo di contenuti? Ma si parla di contenuti video in streaming, evidentemente. In realtà la chiavetta da sola fa veramente poco, cosa che un po' i primi possessori e acquirenti sono rimasti un po' spiazzati da questo effetto. In effetti si collega e dice semplicemente: ok, ci sono, configura la tua rete Wi-Fi, perché si collega a internet con una Wi-Fi, che è un prerequisito, ci vuole quindi una rete Wi-Fi in casa, e dopodiché non fa quasi più nulla da sola. Ovviamente bisogna collegarsi con un device che può essere Android ovviamente, ma anche iOS, con determinate applicazioni è possibile, permettetemi il termine orribile, pushare, cioè spingere, mandare verso la chiavetta dei contenuti video. Faccio l'esempio più classico e della prima applicazione che sin da subito ha funzionato con Chromecast, che è YouTube. Io seleziono sul mio smartphone o sul mio tablet un video YouTube e dopodiché, invece di riprodurlo sullo smartphone e sul tablet, gli dico: mandalo sul mio Chromecast. A quel punto il telefono, cioè il device, diventa assolutamente inutile, nel senso che si stabilisce un link diretto tra il TV e YouTube, ma senza usare un'interfaccia grafica sul TV. Si utilizza come telecomando, lasciatemi dire così, il device, e poi è il TV che si collega a internet. A quel punto il telefono può anche essere spento eventualmente, o comunque non consuma batteria e non fa streaming il telefono. Quindi è una cosa molto diversa dal Miracast, quindi da fare il mirror, quindi replicare lo schermo del device sul TV, che si può fare ovviamente con i TV compatibili, ma è molto più macchinoso, così evidentemente è molto più semplice. Il prerequisito è che ci siano dei servizi compatibili con Chromecast. Ecco, a questo punto ti faccio una domanda: ci sono ad oggi servizi compatibili con Chromecast che quindi possono essere visualizzati sul televisore ma raccolti, trasmessi tramite internet? Incominciano a essercene, anche in virtù del fatto che Google ha liberato in qualche modo le librerie che servono per sviluppare applicazioni che si connettano a Chromecast. E la cosa interessante è che si può fare non soltanto con YouTube, che è un servizio aperto che non richiede autenticazione, ma si può fare anche con servizi che richiedono autenticazione. Gli annunci recenti di cui tu hai accennato, quindi quelli di Infinity e quelli di Chili, sono due servizi che richiedono autenticazione. Il telefono, il device col quale ci si connette, garantisce la correttezza dell'autenticazione e poi il TV va a prendersi il contenuto e lo visualizza. Chiaramente adesso ci si aspetta che tutti i servizi di streaming rilascino velocemente gli aggiornamenti delle proprie app, perché di questo si tratta, che siano compatibili con Chromecast, cioè sono le stesse app, però compare una piccola icona che permette di dire in queste app: no, non visualizzarmi il contenuto sul device, visualizzamelo direttamente su Chromecast e quindi sul TV. Questo è un grande passo avanti, soprattutto in considerazione del prezzo di Chromecast. Non scordiamoci che Chromecast è un apparecchietto che viene al pubblico 35 euro, quindi un costo assolutamente contenuto, molto più basso di qualsiasi altra logica che permetta il collegamento a internet di un TV. Allora, il tema è vedere contenuti video sul proprio televisore raccolti dalla rete internet, quindi contenuti potenzialmente, se non infiniti, molto ampi. Ma fino a ancora oggi, ma diciamo da almeno 2 o 3 anni, noi stiamo parlando e parliamo di Smart TV. Uno dei grandi annunci degli ultimi anni è questa serie. Ormai tutti i produttori hanno la propria linea, o potremmo anche dire ormai tutti i produttori fanno Smart TV, cioè televisori che si connettono direttamente alla rete internet. A questo punto ti faccio la domanda: ma perché abbiamo bisogno di una ulteriore chiavetta che tra l'altro complica un po' le cose, quelli un po' meno smanettoni, quando tutti i televisori si possono collegare e connettere direttamente alla rete internet? Ma i motivi sono molti. Innanzitutto sulla Smart TV ancora non si è capito precisamente quale sia il paradigma di successo. Di certo abbiamo capito negli anni che, per esempio, collegarsi sul TV ai social sia una cosa abbastanza di interesse marginale. Difficile che uno guardi il proprio profilo Facebook sul grande schermo, probabilmente lo farà con uno smartphone o con un tablet. Abbiamo visto che diciamo gli scenari di successo delle Smart TV sono quelle legate ai servizi video, quindi all'utilizzo del TV per quello che è un grande schermo. In questo caso però ogni provider di contenuti deve sviluppare un'applicazione per ogni specifica piattaforma, quindi un'applicazione compatibile con i TV Samsung, un'applicazione compatibile con i TV LG, quella compatibile con i TV Sony e così via. E anche se sono stati fatti negli anni dei tentativi di razionalizzazione e accorpamento delle piattaforme in modo tale che lo sviluppo fosse poi più semplice, resta comunque questo problema. La proposta di Chromecast è quella di rappresentare di fatto una piattaforma unica, trasversale, quindi non più integrata nel TV, che secondo questa visione, che in larga parte condivido, deve tornare a fare il display, quindi il grande schermo, ma deve essere integrata in qualcos'altro, possibilmente orizzontale, non legato alla marca del TV. È proprio qui la novità della proposta di Chromecast, quindi quello di disaccoppiare il TV dalla piattaforma delle app. Abbiamo anche visto che le Smart TV negli anni hanno avuto un grande problema: non sono quasi mai stati aggiornati i sistemi operativi, quindi un TV del 2009 è rimasto alle funzioni del 2009 e non ha magari avuto gli aggiornamenti delle nuove app e dei nuovi servizi e così via. E chiaramente è impensabile che un TV duri una stagione come magari fa uno smartphone. È più facile decidere, se mai uscisse, di cambiare un Chromecast con un Chromecast 2 per avere nuove eventuali funzioni spendendo altri 35 euro, ma avere un TV che duri e non diventi obsoleto nel giro del suo ciclo di vita naturale, che sono di 8-10 anni. Interessante. Faccio un parallelo, anche se può sembrare strano, tra il mondo delle telecomunicazioni e il mondo dei produttori di TV. Stiamo assistendo a operatori di telecomunicazioni che si lamentano, da un certo punto di vista giustamente, del fatto che ormai le loro reti sono reti sostanzialmente neutrali, che portano i contenuti di altri, dei famosi over the top, e gli operatori dicono: noi ci guadagniamo poco, e gli over the top che trasmettono e portano i contenuti guadagnano un sacco di soldi. Qui vale la stessa cosa, quindi i produttori di televisori che si impoveriscono sempre di più, un mercato che è sempre più competitivo con delle basse marginalità, che non riescono a trovare nessuna strada per aumentare il proprio valore e a fare i soldi. Vedremo poi se sarà così, ma insomma, se la strada è quella che stiamo delineando, è molto probabile, e a fare i soldi sono gli over the top. Adesso stiamo parlando di Google, ma magari saranno altri concorrenti. Sta succedendo questo di fatto, Gianfranco? Sì, potrebbe, può darsi, uno scenario assolutamente credibile. C'è da dire, nel caso di Chromecast, che Google in questo lancio non ha utilizzato nessun aspetto delle sue diverse posizioni dominanti nello scenario competitivo di internet, perché di fatto ha fatto un hardware, cosa che non è frequente per Google, che poteva essere fatto da chiunque, volendo, ha dato libere delle librerie agli sviluppatori, cosa anche questa che poteva essere fatta da chiunque. Certo, il nome di Google è già una campagna promozionale automatica per il prodotto, che magari altri competitor non avrebbero avuto, ma diciamo il vantaggio di Google si ferma lì. Se poi Google è più sveglia di altri, beh, forse è anche tutto il diritto di trarne il vantaggio. Cioè, qualsiasi produttore di TV in realtà poteva fare questa chiavetta, però probabilmente chi pensa a livello industriale di essere un venditore di hardware, quindi di televisori, continua a pensare metodi e sistemi per vendere più televisori, non per imporre il proprio marchio sul mercato in senso più ampio. Ed è un po' quello che è successo con la Smart TV, dove abbiamo assistito a sistemi non intercompatibili, dove ognuno voleva e cercava di imporre il proprio ecosistema, cercando di strappare, per esempio, dai grandi editori italiani piuttosto che da altri provider, delle esclusive delle proprie app solo sulle proprie piattaforme. Non è più tempo, secondo me, di esclusive su internet, è tempo di apertura. Ecco, Chromecast sembra in questo momento il prodotto più aperto, devo dire, insieme ai dei tentativi che stanno arrivando di fare dei TV che abbiano come sistema operativo totale Android. Ne abbiamo già visti a marchio Philips, a marchio Haier, quindi a marchio di fatto LG, non Android ma WebOS, quindi un sistema operativo anch'esso pensato per mobile. Il TV deve diventare più flessibile, che poi lo si faccia da dentro il TV o esternamente con una chiavetta, poco cambia. Certo, la chiavetta è più facilmente sostituibile e quindi mette al riparo dall'obsolescenza di un TV integrato. Ultima domanda e un'ultima veloce risposta: esistono dei prodotti analoghi o concorrenti di Chromecast? Esistono delle chiavette Android, di fatto sono dei device Android sui quali è possibile caricare delle app, tanto quanto si può fare su uno smartphone Android. Quindi sono un pochino più macchinosi, perché bisogna caricare queste app, non sempre l'app è perfettamente compatibile, bisogna usare un telecomando per pilotare queste app, che sono magari pensate per un'interfaccia touch, e il TV non ha un'interfaccia touch. Invece Chromecast parte dal presupposto che l'interazione tra l'utente e Chromecast avvenga attraverso un device, quindi non senza un device, attraverso uno smartphone o un tablet, che sempre più spesso tutti noi ci troviamo in mano sulle gambe proprio quando ci sediamo anche a guardare il TV. E quindi è un po' un paradigma modificato di queste chiavette Android che già esistono, e devo dire forse anche più attuale. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille. Questa è la versione podcast del nostro programma. Come sempre vi abbiamo offerto le nostre interviste e vi offriremo anche la prossima intervista in versione integrale, quindi più lunga rispetto a quella che è andata in onda in FM o in digital radio o anche in streaming. A proposito di digital radio, tra poco vi do anche una notizia, anche questa solo per i nostri ascoltatori via podcast. Ci risentiamo tra 3 secondi. 2024. Adesso parliamo di smartphone, un mercato che continua ad essere esplosivo. Questa settimana sono uscite a raffica una serie di indagini a proposito dell'esplosività di questo mercato. Strategy Analytics dice che le vendite nel secondo trimestre del 2014 sono cresciute rispetto allo scorso anno del 27%, e stiamo parlando di un mercato di quasi 300 milioni di pezzi a trimestre. Secondo IDC sono aumentate del 23%, comunque stiamo parlando di un mercato incredibile che continua ad avere un'accelerazione estremamente interessante per tutte le dinamiche che poi si porta dietro, perché naturalmente stiamo parlando della costruzione di una base di utenti che utilizzano le applicazioni, con le applicazioni si aprono milioni di nuovi servizi e anche di nuovi utenti. Quindi sta veramente cambiando non solo questo mercato ma anche la società, perché uno smartphone apre effettivamente l'utente ad una miriade di nuovi servizi, di nuove applicazioni. Di questo parleremo. Adesso parliamo del mercato. Tra gli altri dati che sono usciti, anche Kantar World Panel ha fatto uscire una indagine che ci racconta anche di alcune dinamiche che stanno cambiando in questo mercato, dinamiche che riguardano i prezzi dei terminali, ma direi non solo i prezzi, un sistema operativo in modo particolare Android che diventa sempre più importante, pervasivo, è diventato maturo e non dico tutti, ma in molti produttori possono prenderlo, impacchettarlo, fare un design di uno smartphone bello e riuscire a conquistare quote di mercato. Ne parliamo con Carolina Milanesi, che è direttore della ricerca Kantar, collegata con noi dalla Silicon Valley. Carolina, bentornata a 2024. Sempre un piacere. Partiamo proprio da uno sguardo generale sul mercato mondiale degli smartphone, è sempre un mercato molto frizzante, molto interessante. Una delle novità che voi sottolineate è uno spostamento, non so se dire verso il basso, comunque emergono e appaiono o comunque diventano sempre più evidenti produttori che in molte aree del mondo non sono conosciute. Insomma, che cosa sta succedendo? Quello che sta succedendo è che grazie al software di Android che viene praticamente preconfezionato, la barriera d'entrata nel mercato degli smartphone è scesa e quindi venditori più piccoli, con meno possibilità di fare marketing, con meno possibilità di avere delle grosse operazioni a livello di vendite, riescono a posizionarsi in quel mercato che è medio e basso come fascia e vendere effettivamente molte unità. Un nome che magari in Europa non conosciamo così bene, ma che è diventato il top vendor, quindi la marca, il marchio più conosciuto in Cina, è Xiaomi. Per esempio, in Europa invece abbiamo Wiko e abbiamo Alcatel, che sono brand che conosciamo un pochino di più, specialmente nell'Europa mediterranea, perché lavorano bene in Spagna e in Francia, e Alcatel anche in Italia. Stiamo parlando di produttori che, tu dicevi, sono diventati molto noti nella parte bassa della classifica, cioè non hanno raggiunto i top player, quindi Samsung e tutti gli altri produttori. Xiaomi da questo trimestre è entrato a far parte dei top 5 a livello mondiale, quindi è riuscito ad arrivare nei primi 5 e, come dicevo, il numero 1 in Cina. Stiamo vedendo dai dati che tu ci stai illustrando che quello che abbiamo commentato durante il Mobile World Congress di Barcellona ad inizio dell'anno a febbraio si sta verificando, cioè produttori che grazie al pacchetto già fornito, chiavi in mano di Android, possono produrre un hardware che oramai è diventato piuttosto bello un po' per tutti. Tutti fanno smartphone uguali e grosso modo il design è molto simile e oramai quasi tutti gli smartphone hanno un design decoroso. In questo modo vince chi riesce a trovare un bilanciamento tra una forza commerciale buona, un posizionamento di prezzo interessante e tecnologia che ormai è a disposizione di tutti. A proposito di tecnologia, sta vincendo questo ecosistema così ormai diventato maturo e ben fatto e anche, devo dire, plasmabile e a basso costo, o la tecnologia che oramai è a disposizione di tutti è diventato il fattore determinante di queste dinamiche che stiamo raccontando? La tecnologia è senz'altro diventata matura e poi c'è il cambiamento di importanza di quello che è l'hardware per sé, quindi il telefono per sé, e quello che ti dà il software. Molto di quello che come utenti noi apprezziamo adesso viene fatto dal software, non dall'hardware, che vuol dire due cose. Una è che il valore diventa simile per tutti perché il software è uno. Ci possono essere delle sottigliezze a livello di usabilità, a livello di design, delle icone che hai sul telefono, ma alla gran fine sono tutti uguali. E l'altra è che per i venditori c'è meno spesa, quindi se io sono un piccolo venditore paragonato a un Samsung, per esempio, posso effettivamente arrivare sul mercato con dei costi inferiori a quelli che avrei dovuto sostenere prima di Android. L'altra cosa che fa la differenza quando parliamo di prezzi non è tanto la tecnologia. Sì, ci sono delle cose come i processori piuttosto che la fotocamera e quindi quanti megapixel ci possono essere, oppure lo schermo, la grandezza dello schermo. L'altra cosa che è, diciamo, il fattore che fa oscillare di più l'ago del prezzo è il marchio. Se tu sei un Samsung piuttosto che Huawei, per esempio, il premio che tu fai pagare, l'extra che tu fai pagare per il tuo nome cambia. E questa è la grossa differenza. Quello che stiamo vedendo è che ovviamente il mercato è maturo e quindi ci sono due tipi di utenti in un mercato come l'Europa in particolare o qui l'America. Uno è l'utente che deve cambiare lo smartphone che ha. E l'altro è l'utente che ha ancora un feature phone e deve essere convinto che cambiare a uno smartphone abbia senso. E questi sono i secondi, sono la fascia più grande del mercato che c'è, come opportunità nuova, no? Ma sono anche quelli che sono più sensibili al prezzo. Se guardiamo al mercato italiano, che cosa notiamo? Quali sono le dinamiche che voi osservate? Ma vediamo che i due nomi più grandi, quindi Apple e Samsung, stanno sentendo la pressione dei nuovi nomi, sia nella parte alta del mercato che nella parte a prezzo più basso. Quando guardiamo alle vendite per gli smartphone, vediamo che dei nomi come LG, per esempio, sono all'8% del mercato, paragonato a un 5% del mercato l'anno scorso. Samsung, che aveva il 58% del mercato italiano nel secondo trimestre del 2013, è sceso al 50%. E Apple è andata dal 16% al 12% del mercato. Appunto perché venditori come LG sono capaci di arrivare sul mercato con dei prodotti con un prezzo più attraente senza compromesso di usabilità. Un altro nome che vediamo aumentare come market share, come quota di mercato, come dicevo prima, Alcatel, che adesso ha il 2% del mercato italiano. Huawei al 4% del mercato. In questo caso parliamo di produttori, come tu hai sottolineato, prevalentemente Android che vanno quindi a rosicchiare una quota di mercato anche di Apple. E potremmo dire che in definitiva vince Google, perché poi tra i prodotti sappiamo che i margini in questo mercato sono sempre più bassi, soprattutto nel mercato Android, e quindi è una gara a rubarsi quote di mercato. Forse il vero vincitore è Google, che aumenta la quota di mercato del sistema operativo. Senz'altro, sotto questo punto di vista, vince senz'altro l'ecosistema e quindi Google. È anche, diciamo, una cosa buona per Google che non hanno tutte le uova nello stesso paniere. Quindi che il fatto che Samsung perda un pochino di quota di mercato a favore di altri venditori di Android per Google forse non è così male, perché vuol dire che possono contare su una gamma più alta di scelta per il consumatore. Se guardiamo in generale, ma anche al mercato italiano, Microsoft, che sappiamo ha appena acquisito Nokia, come si sta comportando? Ma siamo in un momento un pochino di stallo perché comunque come mercato non abbiamo visto durante il secondo trimestre dei prodotti nuovi, quindi quella crescita di market share che avevamo visto specialmente in mercati come l'Italia e il Regno Unito all'inizio dell'anno ha un pochino rallentato. C'è l'aspettativa dei nuovi prodotti, abbiamo visto che Nokia ha lanciato il 635 poche settimane fa a un prezzo molto competitivo, ma Samsung anche ha risposto con prezzi competitivi, quindi senz'altro c'è nella parte di fascia media per 4G, quindi LTE, c'è molta competizione. Secondo me, quello che dobbiamo un pochino vedere e capire di più, sia dal punto di vista delle aziende a cui sembra che Microsoft sta puntando in particolare, ma anche per gli operatori mobili, per cercare di capire qual è diciamo, il goal finale di Microsoft. Sono effettivamente interessati a rimanere nella parte di mobile a lungo termine o è una, diciamo, una fase passeggera, dove hanno acquistato Nokia e poi si vedrà che cosa faranno? Secondo me dobbiamo vedere questo, dobbiamo capire nei prossimi 3-6 mesi che cos'altro c'è, altro che quello che ci hanno detto, che è praticamente che vogliono continuare a scendere di prezzo per avere un'opportunità maggiore. Sì, vedremo sicuramente nell'autunno quello che succederà. Un'ultima domanda te la faccio su Motorola. Sappiamo, lo ricordiamo agli ascoltatori, che Motorola è stata venduta da Google ed è stata acquistata da Lenovo. Che cosa sta succedendo? Perché il brand è di primissimo livello e il produttore è entrata Motorola all'interno di uno dei più grandi produttori di hardware del mondo, un marchio cinese molto forte. Che cosa sta succedendo? Non molto, sembra che anche qui, diciamo, il filo conduttore anche della Microsoft Nokia, no? C'è un po' di stallo perché l'acquisizione non è ancora stata finita e quindi stiamo ancora aspettando di vedere che cosa succede. Per adesso abbiamo avuto l'annuncio di uno smartwatch, per esempio, che non abbiamo ancora visto sul mercato, ma che è stato di cui ne abbiamo parlato a Google I.O. il mese di giugno e il successo specialmente del Moto G e del Moto E, che quindi sono prodotti che arrivano alla fascia bassa del mercato, sembra in mercati come l'America Latina che effettivamente interessi agli utenti perché appunto non c'è questo compromesso e l'esperienza è un'esperienza Android pura. Quello di cui io sono particolarmente interessata a vedere è la forza di Lenovo unita a quello che secondo me comunque è un buon design, è un buon pacchetto d'offerta di Motorola. Quindi Motorola fino adesso era un po' limitata a livello di marketing e a livello di presenza di mercati perché comunque non era, diciamo, il goal principale di Google di fare dominazione Motorola per Android, no? Adesso invece sono con un'azienda Lenovo che è molto interessata al mercato mobile, si sono mossi bene in Cina e continuano a crescere come quota di mercato e quindi l'aspettativa secondo me è molto positiva. Vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi. Carolina, grazie per essere stata con noi. Come sempre, buon lavoro, a presto. A presto, buona estate. Anche da questa puntata si capisce molto bene qual è e quale sarà il potere di Google nel controllare questo sistema operativo e naturalmente nell'allargare il proprio ecosistema con miliardi di utenti. Ma di questo abbiamo parlato da parecchi anni parliamo di questo che potrebbe essere un problema, o comunque quando il controllo sia commerciale, dal punto di vista commerciale, ma qui andiamo un po' più in là rispetto al puro controllo del mercato dal punto di vista commerciale, quando tutto ciò è concentrato nelle mani di un'unica azienda, anche se questa azienda si comporta bene, comunque questo potrebbe essere un problema. Basta insomma studiare l'economia per comprendere uno dei capitoli più importanti dell'economia, appunto la concentrazione del potere in un'unica azienda e tutto quello poi che ne consegue in termini di antitrust. Allora, a proposito invece di Digital Radio, vi dicevo poco fa che vi avrei dato un aggiornamento di questa settimana che riguarda la AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, che ha deciso, non stiamo parlando di saette, non è che sono velocissimi, comunque, di procedere alla pianificazione di nuove aree regionali per il servizio digitale terrestre radiofonico, quindi il DAB Plus, che come nome commerciale viene pubblicizzato come Digital Radio in Italia. Allora, dovrebbero essere pianificate le frequenze in Valle d'Aosta e Piemonte. Attualmente la pianificazione delle frequenze è stata fatta in Alto Adige. Mano a mano la si farà in tutta Italia, ma al di là della pianificazione ufficiale fatta di concerto tra Ministero e AGCOM, possiamo dire che i consorzi che diffondono il servizio di radio digitale in Italia hanno già coperto il territorio e quindi esiste già il servizio commerciale. Ad esempio Radio 24 attraverso il Club DAB Italia, dove ci sono altre radio come Radio Dimensione Suono, DJ, Capital, eccetera, eccetera, copre già tutta l'autostrada da Bolzano fin quasi a Napoli, buona parte della pianura e collina del nord Italia. Se andate su Club DAB Italia trovate le mappe. Vi promettiamo anche di fare un aggiornamento sulla radio digitale in Italia nella prossima stagione, quindi settembre-ottobre, un aggiornamento per capire qual è l'evoluzione. Oltre che un suono di buona qualità, la caratteristica principale, soprattutto per chi si sposta in automobile, della radio digitale è l'assenza di interferenze. Dove il segnale arriva, la ricezione è perfetta e devo dire che è un piacere ascoltarla. Bene, è tutto per questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, per aver scaricato questa versione podcast del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024, scritto in cifra, quindi 2024, @radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.